Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera parleremo di Maria, del mese mariano, della Madonna, della mamma di Gesù, della madre della Chiesa. Tante cose, un simbolo che nei secoli ha continuamente riferimenti, ha continuamente ovviamente presenze. E lo faremo con un personaggio d'eccezione, il professor Marco Vannini. Semplicemente dirò il suo curriculum perché è uno dei più grandi studiosi di mistica del nostro tempo. Pensate che in italiano ha tradotto quasi tutte le opere di Meister Eckhart, forse le ha tradotte tutte, ma poi mi correggerà lui, ma anche di altri mistici medievali e anche più recenti. Due libri, ricordo soltanto proprio gli ultimi due che ha pubblicato, una inchiesta su Maria con Corrado Augias, che ha fatto molto parlare di sé ed è stata pubblicata alla fine dell'anno scorso da Rizzoli, e poi un'indagine sulla vita eterna con Massimo Polidoro, che è invece in libreria in questi giorni, pubblicata da Mondadori. Buonasera professor Vannini. Buonasera dottor Torno. Saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, io volevo chiederle, tra tutte le sue traduzioni, Meister Eckhart è stata completata o manca ancora qualcosa? Perché lì penso che le manchi qualche pagina di Eckhart da tradurre. Ma dunque, guardi, mancano quelle pagine che ancora mancano, mi scuso per il gioco di parole, nella edizione critica tedesca che è ancora in corso. Però tutto quello che è stato fatto, diciamo, dai tedeschi nell'edizione critica, beh, ce l'abbiamo anche in italiano, quindi oserei dire tutto, insomma, ecco. Ecco, invece questa riflessione che le chiediamo su Maria, partiamo da un fatto molto semplice: il mese mariano un tempo era particolarmente sentito, un tempo era il mese delle processioni, dei canti, eccetera. Oggi forse è un mese che chiamiamo ancora mariano, ma non più sentito dal punto di vista del culto, della fede. Maria è tramontata, Maria è presente. Che cosa ci può dire lei, professor Vannini, a questo proposito? Ma guardi, io credo che lei abbia ragione in parte e in parte no, come sempre succede. Cioè, credo che la devozione mariana e anche appunto questo aspetto molto suggestivo, almeno come lo era un tempo, del mese mariano, abbia perduto indubbiamente, diciamo così, peso, ma soprattutto presto, diciamo così, un certo tipo di popolazione, le classi direi superiori in un certo senso, mentre a livello popolare la cosa sia ancora abbastanza diffusa, e abbastanza diffusa direi forse un po' a pelle di leopardo, cioè in certe regioni d'Italia magari di più, in altre un po' meno. Però guardi, io come diciamo fedele, tra virgolette, almeno spero, e quindi frequentatore della Chiesa, e vedo che insomma ancora questo aspetto esiste, sussiste, ecco, tra l'altro magari più tra persone di una certa età che non tra i giovani, ma questo attiene alla, come dire, al fenomeno della secolarizzazione, come lei sa benissimo, ha colpito un po' tutte le sfere della vita religiosa. Certo, professore. Soltanto, insomma, la devozione mariana. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con il professor Marco Vannini da Firenze. Ricordo che uno dei più grandi studiosi di mistica che l'Italia ha e abbia avuto, ha tradotto il mistico medievale tedesco Meister Eckhart, tutto quello che è stato pubblicato, ma anche altri, e ricordo i suoi ultimi due libri, Inchiesta su Maria, fatta con Corrado Augias nel 2013 da Rizzoli, e poi recentemente è uscita una sua indagine sulla vita eterna con Massimo Polidoro da Mondadori. Ecco, professor Vannini, abbiamo detto che il culto mariano, diciamo così, come veniva praticato magari nei decenni addietro, quindi con il mese, le processioni, le chiese stracolme, è un po', non dico tramontato, ma quantomeno si osserva, si vede, si tocca meno, però i santuari mariani sono ancora particolarmente attivi, anzi hanno una ripresa, a volte sono frequentatissimi. Effettivamente andare a Lourdes, come andare a Medjugorje, come andare in altri santuari, a Fatima, eccetera, è sempre un problema di organizzazione, è sempre molto difficile. Cioè un culto diffuso in tutto il mondo, dal Messico all'Europa, ad altri luoghi, che effettivamente non cessa di entusiasmare folle immense. Certamente, certamente. E questo credo che sia un fenomeno che è destinato a durare, nella misura in cui il culto mariano e il rivolgersi dell'anima del fedele verso questa figura insieme materna e virginale risponda proprio, direi, a dei bisogni profondi, dell'uomo, che non sono solo quelli, diciamo così, mi permetto di dire, più banali, della ricerca di protezione o della ricerca di grazie, cose di questo tipo, come potrebbe essere magari, appunto, visto, se si guarda la cosa superficialmente, potrebbe apparire così. No, no, io credo, e l'abbiamo anche detto, insomma, l'abbiamo scritto anche in questo nostro lavoro che ho fatto a quattro mani con Augias, io credo che ci sia qualcosa di più rilevante, cioè non a caso la devozione mariana non è soltanto propria, diciamo, degli umili, dei semplici, dei bisognosi, ma anche di persone assolutamente che non sono in questa condizione, sono degli intellettuali, sono delle persone, diciamo, che non si rivolgono a Maria per ricevere direttamente qualcosa, ma perché questa è una figura che tocca profondamente, direi, alle radici l'anima umana, in quanto nell'anima umana, come tutti sanno ormai, come dire, il femminile è l'elemento che conduce verso la grazia. Lo diceva anche Goethe, vero, quando fa dire ai suoi personaggi del Faust che il femminile è la grazia, è quella che porta verso l'alto. Ecco, sotto questo aspetto direi c'è un elemento nobile, nobilissimo, no? E io credo che non verrà mai meno in questo fenomeno, peraltro di massa, no? E quindi talvolta guardato, diciamo, con un certo sussiego dai cosiddetti laici. Comunque è un fenomeno questo dei santuari mariani, dei miracoli, dei pellegrinaggi, delle persone che in qualche modo si ritrovano in questa fede, è un fenomeno che non è mai diminuito anche in tutto il Novecento, razionalista, miscredente, secolarizzato, è un fenomeno che continua, basta una piccola apparizione o considerata tale e subito riprende questo culto di Maria in ogni parte del mondo. Certamente, come ha detto lei prima, si va dall'Africa nera, dove mi sembra, ora cito la memoria, insomma, c'è una delle pochissime apparizioni, tra l'altro riconosciute dalla Chiesa, perché bisogna anche notare che la fede popolare, questa forma di devozione, è molto più ampia, per così dire, di quanto lo siano i riconoscimenti ufficiali ecclesiastici. No? Ora io cito a memoria perché non voglio tediare gli ascoltatori, ma per esempio le apparizioni riconosciute dalla Chiesa sono un numero estremamente esiguo rispetto a quelle invece che il popolo, che le popolazioni desiderano, vogliono e anzi come dire, praticano intensamente. La stessa, come lei ha citato prima, lo stesso fenomeno di Medjugorje, che è, direi, ai nostri giorni credo uno dei più massicci e in questo senso anche significativi, è un qualche cosa su cui la Chiesa, la gerarchia ecclesiastica ancora ha sospeso il giudizio, e questo evidentemente vuol dire, come dire, vox populi, vox dei, che c'è veramente un bisogno profondo che è nella popolazione, che è in tutti, umili e dotti, come dire, semplici persone di cultura, le quali in qualche momento sentono appunto questa necessità. Lo stesso si potrebbe dire, ma ora magari non voglio esulare dall'argomento della trasmissione, anche a proposito, non so, di un fenomeno per esempio la poesia, la letteratura. Maria ha ispirato non solo i grandissimi del Medioevo come Dante e Petrarca, ma anche personaggi assolutamente insospettabili sotto questo aspetto, insomma laici, laicissimi del nostro tempo. Non so, tanto per dirne uno, Bertolt Brecht, da cui certamente non ci si aspetta. Ecco. Questa Maria de Buenos Aires, questa Io Soy Maria, che impressione le ha fatto Vannini? Ma dunque, guardi, io, a parte l'aspetto musicale, su cui non mi pronuncio, ma mi sembra molto significativo e quindi anche molto bello, direi, il fatto che proprio dal popolo, dal mondo della popolazione di Buenos Aires o di altri, in questo caso Buenos Aires, quindi di Tangueros, eccetera, venga questo canto mariano, questa musica mariana, a significare una cosa che veramente è stata sempre molto rilevante, cioè come Maria sia radicata profondamente per un verso nell'umano, no? Maria, diceva Teresa di Lisieux, è una di noi, e quindi si avverte come anche nell'amore umano, in questo caso nell'amore di un uomo per una donna, insomma, che passa anche necessariamente, come dire, per il corpo, per la carne, per la fisicità, però ci sia il rimando, il richiamo e il legame profondo, diciamo pure, al divino. Questo rapporto profondo tra umano e divino che passa proprio per il sentimento e per la carne di ciascuno di noi. A me questa sembra una cosa particolarmente significativa, e quindi devo dire che trovo felice la scelta di aver mandato in onda questo brano. Di Piazzolla. Io amo un po' Piazzolla, è un piccolo segreto, che poi amo anche Bach, Schubert, eccetera, li ascolteremo magari. Ma volevo anche chiedere, lei con l'indagine sulla vita eterna si è anche preoccupato un po' della dimensione ultraterrena, questo libro che sta appunto circolando di Mondadori. Maria è l'unica creatura che è stata assunta in cielo, no? Cioè è stata assunta con il corpo, un dogma di fede della Chiesa. Come lo possiamo spiegare? Cosa ci può dire a questo proposito? Le cose che si potrebbero dire sono tante. Nel nostro libro, insomma, ci abbiamo dedicato anche ampio spazio, ma la cosa significativa, direi in breve, è questa, no? Che questo dogma a lungo desiderato dalla popolazione, dal popolo cristiano, e solo molto tardivamente, diciamo così, proclamato, perché è l'ultimo dogma mariano, che è del secolo scorso, no? Significa questo, significa appunto che il corpo, per certi versi, spesso, a volte, come dire, disprezzato come fonte di male, fonte di peccato, e in particolare il corpo femminile, questo è molto significativo, in realtà viene, come dire, elevato esso stesso alla sfera del divino. È una sorta di riconciliazione profonda tra, come dire, tra corpo e spirito. Le faccio notare questo agli ascoltatori, che mentre per alcuni teologi, anche cattolici, il dogma dell'assunzione ha scarso significato, come dire, poco tocca la fede cristiana, che Maria sia o no assunta in cielo, c'è lo psichiatra Jung, scrisse a proposito, perché era ancora vivo quando il dogma fu proclamato, che era l'evento religioso più importante della storia del cristianesimo dopo la riforma protestante, cioè gli dette un valore straordinario, che era appunto proprio questo, il femminile, l'elemento femminile, l'elemento corpo femminile, che viene assunto, ora qui è un gioco di parole, nella sfera del divino. È una cosa straordinariamente significativa, non è affatto una, come dire, una devozione solo popolare, come qualcuno potrebbe ingenuamente pensare, è ricchissimo di significato teologico, spirituale. E quindi Maria è già entrata nell'eternità sostanzialmente con il proprio corpo, anticipando tutti. Diciamo che questo dice la definizione dogmatica, ma prima ancora lo ha pensato per secoli la tradizione e la devozione del popolo cristiano. In questo caso soprattutto, e anche in quello direi precedente nell'Ottocento, della Immacolata Concezione, no? Cioè del fatto che Maria sia, che il concepimento di Maria sia stato sottratto, diciamo sia alla pecca del peccato originale, in questi due dogmi in particolare la fede popolare ha di gran lunga preceduto le definizioni dogmatiche. Le definizioni dogmatiche si sono, per così dire, tra virgolette, dovute adeguare a qualcosa che proveniva profondamente, come dire, dalla fede sentita dell'intero popolo cristiano. E siccome si dice lex orandi, lex credendi, cioè la preghiera, l'elemento preghiera conta di più e viene prima di quello che è l'aspetto dogmatico, ecco che la cosa è particolarmente significativa, insomma. Certo. Professor Vannini, come possiamo concludere un po' il discorso su Maria dicendo che è una fede che viene forse da tempi ancora più remoti di quelli cristiani e che il cristianesimo forse, diciamo così, rende particolarmente umana, o è un'idea sbagliata questa? No, è un'idea vera, nel senso che non c'è dubbio che anche prima del cristianesimo ci siano stati fenomeni importantissimi di culto, di devozione verso divinità femminili, verso tutte le dee madri, vero, del mondo mediterraneo. Certo. Lo sappiamo benissimo. E è anche vero, non c'è dubbio, che il culto mariano, la devozione mariana e anche certi aspetti appunto relativi alla teologia mariana abbia anche attinto al mondo precristiano, non c'è da sbigottire in questo, no? Però altrettanto con verità credo che dobbiamo sottolineare anche le differenze, insomma, no? Che il culto mariano e la figura di Maria ha nei confronti di queste, come dire, sue eventuali precedenti antenati, che potrebbero essere, non so, Iside per esempio, no? Perché la compresenza profonda di l'elemento virginale, l'elemento materno, è direi una caratteristica proprio specifica di Maria. Come dicevamo poc'anzi, questo fatto la rende particolarmente vicina, direi particolarmente vicina innanzitutto all'anima umana, all'animo umano, maschile e femminile che sia, e perciò direi particolarmente cara. Si può notare, per esempio, come non solo la devozione mariana sia stata propria, diciamo, a tutti i livelli, sia degli umili che dei dotti, ma non so, il fatto è che se è difficile rivolgersi, insomma, a Dio, visto come trascendente, Signore, e per alcuni probabilmente, come dire, anche dubbio, è la preghiera mariana, il rivolgersi a Maria è molto più facile. Lo notava un poeta francese, uno scrittore francese, lei conosce benissimo, che è Peggy, quale diceva: certo, pregare Dio è difficile, ma invece la preghiera rivolta a Maria è molto più facile. Ecco, io sottolineerei proprio questo, direi, la profonda vicinanza della figura mariana a tutti i livelli con l'anima umana. Abbiamo solo il tempo per salutarci e grazie per essere stato con noi, professor Vannini. Grazie a lei, dottor Torno. E grazie a voi, cari ascoltatori. Vi do appuntamento, come sempre, domenica prossima alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Marco Vannini.